Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Nel calcio il capitano è una figura suggestiva e stimolante. La fascia al braccio lo distingue dagli altri 10 compagni di squadra. Di solito il capitano è il giocatore più carismatico, più rappresentativo, più coraggioso, non sempre il più anziano. Quasi sempre quello che i tifosi idolatrano come una sorta di guida, di condottiero ricco di valore e di fermezza. A questo simbolo così affascinante è dedicata la nostra puntata di oggi. A due capitani coraggiosi, i cui destini si sono incrociati attorno a una delle maglie più prestigiose del calcio italiano. Per iniziare il nostro racconto nel migliore dei modi, è necessario un piccolo antefatto. Stagione 1995-1996. Nel calcio italiano viene introdotta una novità che spettacolarizza enormemente il circo del pallone. La numerazione delle maglie estesa, cioè non più dall'1 all'11 come è avvenuto fino a quel momento, con i giocatori liberi di cambiare numero anche a ogni incontro. Ora ogni atleta ha il suo numero per tutto l'anno, con il nome scritto sopra, come avviene in NBA. Un'innovazione che imprime un'impennata alla vendita del merchandising, spingendo i tifosi a comprare le maglie dei propri idoli. Da questo momento, inoltre, le società sono libere di ritirare alcuni numeri dopo il congedo di alcuni atleti rappresentativi, come omaggio a carriere straordinarie. Se provate a scorrere i numeri di maglia del Milan di questi ultimi anni, vi accorgerete senz'altro che ne mancano soltanto due, il 6 e il 3, che ritirati per sempre in omaggio a due straordinari campioni, non potranno mai più essere indossati da nessun altro. Basterebbe questo a legare insieme il destino dei nostri personaggi odierni, le due leggende rossonere che hanno portato per anni quei numeri sulle spalle. Alla fine degli anni 70 il calcio è molto diverso da quello di oggi. I numeri di maglia sono ancora solo e soltanto 11. La vittoria viene premiata con 2 punti, le partite si svolgono tutte la domenica pomeriggio. Nel 1977-1978 la fascia del capitano del Milan è saldamente indossata da Gianni Rivera, una bandiera dei rossoneri ormai giunto alla soglia delle 35 primavere. Il Milan sembra in una fase di stallo, di transizione, è alla ricerca dello scudetto e della stella, il decimo, ma non sembra attrezzato per raggiungerlo. Quella stagione vede il Milan di Rivera giungere quarto. È il campionato che vede esplodere il talento del giovane Paolo Rossi alla guida dell'attacco del suo Lanerossi Vicenza, secondo dietro alla Juventus. Nel Milan, però, il 23 aprile 1978 fa il suo esordio un altro giovanissimo, destinato a lasciare un segno indelebile nel calcio italiano. Al centro della difesa rossonera, appena 17enne, scende per la prima volta in campo Franco Baresi. Franco Baresi. Domenica 23 aprile, alle 15, si gioca allo stadio Bentegò di Verona-Milan. Finisce 2-1 per i rossoneri e inizia la leggenda di Franco Baresi. In un ruolo delicato come il centrale difensivo, Baresi, ancora ragazzino, dimostra subito grandissima personalità. Il mito vuole che l'allora esordiente Baresi si sia permesso di dire a Rivera, reo di aver preso palla e averla tenuta un po' troppo, «Me la vuoi passare o no?» Non è l'unico compagno più anziano che Baresi si permette di sgridare in campo. Si racconta che, finita la partita, il Piscinin, come era soprannominato Baresi, rientri in spogliatoio e si trovi davanti l'allenatore, il Paron Rocco. «Ciao Mona, te che gioca anche a ti?» «Cioè, hai giocato anche tu?» gli dice Rocco. I compagni ridono, Baresi confessa di aver voluto nascondersi. «Ma della verità, tornai a casa... Io personalmente non ero così soddisfatto come poi dissero che avevo giocato benissimo, che avevo gli elogi di Rivera, dei compagni, però così vincemmo e quindi andò tutto bene». L'anno dopo Franco Baresi diventa titolare inamovibile del Milan, promosso dal nuovo allenatore Nils Liedholm e dal capitano Gianni Rivera. Franco blinda la difesa rossonera, che centra subito lo scudetto della stella. Gli addetti ai lavori lo fotografano subito come uno dei più forti difensori del campionato, nonostante abbia appena 18 anni. Immancabile arriva la solita pittoresca descrizione di Gianni Brera. «Baresi è dotato di uno stile unico, prepotente, imperioso, talora spietato. Si getta sul pallone come una belva e se per un caso dannato non lo coglie, salvi il buon Dio chi ne è in possesso. Esce dopo un anticipo, atteggiandosi a mosse di virile bellezza gladiatoria. Stacca bene, comanda meglio in regia. avanza in una sequenza di falcate non meno piacenti che energiche. Avesse anche la legnata del gol, sarebbe il massimo mai visto sulla terra con il brasiliano Mauro, battitore libero del Santos e della nazionale brasiliana 1962. Come arriva Franco Baresi al Milan? Il futuro capitano rossonero nasce a Travagliato, comune di 10.000 abitanti in provincia di Brescia, l'8 maggio 1960. Come molti ragazzi, mostra subito una grande passione per il calcio e inizia a giocare all'oratorio, dove emerge presto anche il talento. Il calcio unisce Franco al fratello maggiore Beppe, entrambi milanisti, entrambi talentuosi. Franco e Beppe, dopo essersi messi in mostra sui campi delle varie parrocchie del Bresciano, iniziano un giro di provini. Entrambi milanisti, per ironia del destino, il primo provino avviene per l'Inter. Franco viene scartato, Beppe viene preso. Franco viene scartato anche dall'Atalanta. Fisicamente ancora non ben formato, gli osservatori ne sottovalutano le capacità di crescita. A 14 anni per Franco arriva il terzo provino, sempre a Milano, sponda rossonera, la squadra del cuore. Il viaggio in treno, accompagnato dal padre, è una grande emozione. Gli osservatori del Milan sono più lungimiranti. Baresi supera la selezione, lascia il paese e gli amici e si sposta nella metropoli. È il 20 agosto 1974. Dal settore giovanile inizia la grande storia di Franco Baresi al Milan. Franco Baresi diventa titolare nel Milan nella stagione 1978-1979. Nelle amichevoli estive, Baresi convince l'allenatore Lidolm a dargli una maglia da titolare. È la maglia numero 6 che Baresi indossa nella prima giornata di campionato per non abbandonarla più. È lo stesso allenatore a ricordare i motivi di quella scelta. Gente come Tessari, Galbiati, come Sagatti che l'hanno avuto, e dicevano tante cose belle. Naturalmente di fare esordio di un ragazzo così giovane in Serie A si pensava due volte. Io mi ricordo anche il povero Rocco, ma c'hai veramente coraggio di dare a un ragazzo a quell'età, in un gioco talmente importante come libero, di fare esordire? Ma io ho provato e è andato benissimo. Si vedeva che aveva la personalità da sviluppare, perché in campo era autoritario, e così l'anno dopo è diventato titolare fisso, e l'anno della Stella che abbiamo vinto è stato l'uomo più importante. Sì, quell'anno lì fu un po' una sorpresa vincere il campionato, c'erano dei grossi giocatori, ma mi ricordo che arrivò dal Monza Buriani, il Tosetto, erano un po' delle incognite, diciamo, e quindi vincemmo così. Come un talismano magico, Baresi, con quella maglia sulle spalle, fa vincere al Milan il decimo scudetto, quello della Stella. Un momento importante. Dopo anni, il capitano Gianni Rivera lascia il calcio e lo fa da vincitore. Franco Baresi, però, è il vero uomo decisivo di quello scudetto. È una rivelazione straordinaria. Difensore elegante, testa alta, piedi ottimi, senso dell'anticipo, propensione alla battaglia quasi da gladiatore, attitudine alla leadership. Ha solo 19 anni, ma tutti capiscono che la fascia di capitano portata da Rivera passerà inevitabilmente di lì a poco sul suo braccio. Ci vogliono altre tre stagioni tra le più complesse della storia del Milan. Nel 1979-1980, sul campo, i rossoneri arrivano terzi, ma vengono travolti dallo scandalo del Toto Nero. Questa è la sentenza. Per il Milan, retrocessione in Serie B. Avellino e Perugia partiranno da meno 5 nel prossimo campionato. Il Milan viene investito in pieno dallo scandalo delle scommesse clandestine. Il presidente Colombo e il portiere Albertosi vengono arrestati. Il Milan viene retrocesso per la prima volta nella sua storia in Serie B. Molti pezzi pregiati abbandonano la squadra, rifiutandosi di disputare il campionato cadetto. Non Baresi, per il quale il rossonero è una seconda pelle. Franco rimane anche in B e guida il Milan alla promozione e al ritorno nella massima serie. Promosse in Serie A, Milan, Cesena, Genoa. Retrocedono in Serie C1 Monza, Atalanta, Taranto. Purtroppo per Baresi e per il Milan l'esperienza della B si ripete. Scarsamente attrezzato per la massima serie e appesantito da oscure vicissitudini societarie, il Milan retrocede, questa volta per demeriti sportivi, al termine della stagione 1981-1982. Baresi nel frattempo è entrato anche nel giro della nazionale maggiore ed è ricercato dai maggiori club italiani. Nonostante tutto, Franco sceglie ancora di rimanere al Milan per la seconda volta in B. Io sentivo che c'erano delle offerte, che ci potevano essere delle possibilità che potessi lasciare il Milan, ma a me personalmente di concreto non arrivò mai niente, quindi mi fui anche felice, nel senso che io personalmente non ho mai pensato di poter lasciare il Milan. Ero giovane, avevo iniziato in questa società, ero cresciuto lì, quindi ho sempre pensato che mi sarei poi potuto rifare sempre con il Milan, perché il Milan è una grande società, è sempre stata una grande squadra, quindi col tempo mi sarei preso le mie soddisfazioni, così poi è stato. In Serie B, oltretutto, Baresi ci arriva da campione del mondo, avendo partecipato alla vittoriosa spedizione spagnola del 1982, pur senza disputare un solo minuto. Un campione del mondo per la seconda volta in B. L'attaccamento alla maglia viene premiato con la fascia di capitano. A 22 anni Franco diventa il leader dei rossoneri, ormai beniamino indiscusso dei tifosi, raccogliendo degnamente l'eredità del grande Gianni Rivera. Io credo che devo sempre dire grazie a Rivera, perché era uno dei più dei grandi che stava finendo la carriera, ma mi aiutò moltissimo. Con i giovani lui era molto bravo e cerca sempre di mettermi a mio agio, di darmi una mano, e io cercavo di da lui di scoprire, di vedere come si muoveva, ecco, come si comportava, di portargli via i segreti. La bandiera Franco Baresi torna con il suo Milan in Serie A nel 1983. La squadra non è ancora all'altezza della sua gloriosa storia. L'organigramma societario è piuttosto confuso e non ci sono ancora investitori pronti a riportare il Milan tra le grandi del calcio italiano. Quantomeno i rossoneri riescono a stabilizzarsi nella massima serie, pur navigando costantemente a media classifica. Nella parte conclusiva della stagione 1984-1985, però, un piccolo pezzo del Milan straordinario degli anni a venire prende il suo posto. La storia, fatta di corsi e ricorsi storici, permette a Franco Baresi, con largo anticipo, di fare ciò che Rivera aveva fatto con lui: prendersi un giovane sotto l'ala e dargli i consigli giusti. Franco Baresi non ha ancora 25 anni, quando in un pomeriggio primaverile di Udine, ancora Nils Liedholm, l'uomo che aveva lanciato anche lui, decide di provare un ragazzino dal cognome Pesantissimo che in allenamento lasciava tutti a bocca aperta. Franco, pensaci tu, sembra aver detto il barone, dopo aver deciso di affiancare a Baresi questo sbarbatello un po' spaurito. Il 20 gennaio 1985 a Udine fa il suo esordio in Serie A Paolo Maldini. Paolo Maldini. Il cognome Maldini, dagli anni 60, è un pezzo di storia rossonera. Il grande Cesare Maldini, infatti, suo padre, è stato capitano del Milan dal 1954 al 1966, vincendo praticamente tutto. 19 anni dopo, suo figlio Paolo esordisce e finisce sotto l'ala protettiva di Franco Baresi. Il cerchio sembra chiudersi e sarà un cerchio pieno di trionfi e straordinari successi. Put your hair back. Get to leave 11 gallows on your sleeve. Shallow figured, winners paid 11 shadows. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi stiamo raccontando la storia di una fascia, quella che avvolge il braccio del capitano del Milan. Portata per moltissimi anni dal grande Gianni Rivera, nel 1982 viene indossata da Franco Baresi, lanciato giovanissimo da Nils Lidholm. Nel 1985 sempre l'allenatore svedese lancia un altro campione, appena sedicenne, chiedendo a Baresi di fargli da chioccia. Paolo Maldini, che di Baresi diventerà l'erede. Con questa dinastia di leader pronta a crescere, il Milan, reduce da stagioni difficili, si prepara alla grande riscossa. Paolo Maldini, figlio d'arte, è il quarto dei sei figli di Cesare Maldini. È nato a Milano il 26 giugno 1968. Da piccolo dimostra subito grande passione per il pallone e anche per lui, come per Baresi e per molti altri, i primi calci hanno come cornice un oratorio, quello di San Pio X a Milano. Papà Cesare non fa molte pressioni su Paolo affinché segua le sue orme, ma l'amore per il calcio sboccia in maniera naturale. Piccola delusione per il genitore, Paolo, suggestionato dai successi della Juventus, diventa tifoso bianconero, appendendo addirittura un poster di Roberto Bettega in camera, sopra il letto. Fatto sta però che quando Paolo ha solo 12 anni, il suo talento precocissimo è già evidente. Ha giocato sempre solo all'oratorio, partitelle tra amici, su campi piccoli. Papà Cesare gli fa fare un provino al Milan che non se lo fa sfuggire, nonostante non abbia mai disputato un match a 11. Così Maldini entra nelle giovanili, da cui lo pesca nel 1985 Nils Lidholm. Curiosità, Maldini diventerà in poco tempo il più grande terzino sinistro di tutti i tempi. Da giovane però è destro naturale. È stata la necessità, è stata l'occasione. Ho fatto tutte le giovanili giocando a destra e poi una volta arrivato in prima squadra c'era un posto a sinistra e non potevo permettermi di non sfruttare il momento, di conseguenza avendo anche una discreta padronanza col sinistro ho cercato di migliorare proprio quella parte. Fisico prorompente, coordinazione naturale, due piedi d'oro, questo è Paolo Maldini. Il Milan riparte da lui e da Franco Baresi quando nel 1986 Silvio Berlusconi acquista la società e decide di investire in un progetto vincente. Arrivano tanti grandissimi giocatori, nomi altisonanti, stranieri di valore assoluto. Lì dietro però, sul centro-sinistra, il Milan erige una diga invalicabile contro cui vanno a sbattere tutti. Baresi, che è stato capitano del Milan in B, nella stagione 1987-1988 guida i rossoneri a vincere l'11° scudetto, con Arrigo Sacchi in panchina. Ecco il fischio finale ed ecco Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, la soddisfazione dall'anno scorso a quest'anno, lo scudetto. Sì, una grande soddisfazione per me, per questi ragazzi, per tutto questo pubblico, per il nostro presidente. Sacchi se l'aspettava quando ha preso il Milan che la squadra esplodesse così ai suoi ordini? No. Qual è stato secondo lei il momento clou di questo campionato? Dopo il petardo con la Roma, lì abbiamo reagito da grandissima squadra. Direi che lei è un allenatore sui generis, riesce dove gli altri forse non pensano neppure di arrivare. Sì, ma a volte non riesco dove gli altri arrivano. Grazie, complimenti e auguri. Franco Baresi, Franco Baresi, allora, 10 anni fa eri un ragazzo e hai vinto lo scudetto e oggi? Oggi è una grande soddisfazione, abbiamo fatto felici tutta questa gente che lo meritavano. Che cosa si prova a essere capitano e a concludere una rimonta come questa? Penso che sia una grande soddisfazione, una grande impresa abbiamo fatto, meglio di tutti. Grazie a tutti, siete eccezionali. Sacchi, con il suo Milan, mostra al mondo un gioco nuovo, divertente, esaltante. Un gioco offensivo, improntato alla ricerca del gol. Ma sbaglia chi crede che il verbo sacchiano fosse improntato esclusivamente all'attacco. Le squadre di Arrigo hanno soprattutto una caratteristica: non prendono gol. La fase difensiva è curata scrupolosamente in ogni dettaglio e anche il possesso palla è basato su un principio semplicissimo. Finché la palla l'abbiamo noi, dice Sacchi, gli altri non possono segnare. Il condottiero di questa armata invincibile e spettacolare, naturalmente, è proprio lui, Franco Baresi, a 28 anni nel pieno della sua forza atletica e della sua maturità. Alla sua sinistra, giovane, dirompente, appena ventenne, Paolo Maldini. Il palmarès che il Milan di Baresi e Maldini conquista sotto la guida di Arrigo Sacchi è davvero impressionante. Uno scudetto, due coppe campioni, due coppe intercontinentali, due supercoppe europee. Franco Baresi arriva secondo nella classifica del pallone d'oro del 1989, dietro al compagno di squadra Marco Van Basten. Ormai si sprecano i paragoni con i grandi del passato. Il più gettonato è quello con Franz Beckenbauer, paragone che stuzzica anche l'allora CT azzurro Azeglio Vicini. Sì, eleganti tutti e due, però Franco ha uno scatto più rabbioso di Beckenbauer, il quale forse era più deciso, non so, Franco per le sue incursioni, ad esempio, fa pochissimi gol. Beckenbauer non tanti di più, però poteva essere un po' più, anche perché veniva dal centrocampo, mentre Baresi è nato libero fin da ragazzino. Ma lei lo ha visto sempre così sin da ragazzino, proprio aveva queste caratteristiche? Sì, ma lui ha questo guizzo e questo palleggio che poi, se si guarda bene, sono tipici quasi dell'attaccante. Io infatti dico che se da ragazzino fosse gli avessero dato un numero di mezzala d'attacco o di attaccante, avrebbe fatto lo stesso una grandissima carriera, perché poi ha anche un tiro preciso e violento. No, secondo me è un giocatore universale, ecco. Chiaramente in quel ruolo ha reso questo ruolo affascinante. Azeglio Vicini è il primo CT della Nazionale Maggiore a puntare tutto su Franco Baresi. Lo fa nel 1986, quando prende il posto di Enzo Bearzot, che vedeva Baresi più come centrocampista che come difensore centrale e con il quale il milanista non aveva mai legato. Vicini, invece, ne fa subito un titolare inamovibile e anche lui decide di investire pure su Maldini, nonostante l'età giovanissima. Agli europei del 1988 Baresi ha 28 anni, Maldini 20. Titolari nel Milan sono anche pilastri della nazionale, guidando gli azzurri al terzo posto. Stesso discorso due anni dopo, ai campionati del mondo di Italia 90. Baresi al centro della difesa, Maldini laterale sinistro. Prestazioni mostruose e Italia in semifinale senza subire nemmeno un gol, prima della sfortunata gara persa ai rigori contro l'Argentina. Parlando di nazionale, però, c'è una partita che più di ogni altra fotografa la grandezza di questi due uomini. Bisogna saltare in avanti, al Mondiale americano del 1994. Arrigo Sacchi è il CT dell'Italia. Gli azzurri arrivano in finale, dove si trovano davanti il Brasile dei due funamboli Romario e Bebeto. Franco Baresi e Paolo Maldini, insieme a Roberto Baggio, sono le superstar della nazionale azzurra, i leader indiscussi. Baresi ne è anche il capitano, ormai da 4 anni. Al secondo match, però, contro la Norvegia, per la prima volta in carriera, il ginocchio di Baresi fa crack. Rottura del menisco. I più pronosticano mondiale finito. Baresi viene operato d'urgenza. La fascia passa a Paolo Maldini, che guida gli azzurri fino alla finale. Lì, contro ogni previsione, contro ogni logica, contro la ragione, Franco Baresi, 24 giorni dopo l'operazione al ginocchio, scende in campo per guidare gli azzurri contro il Brasile. Innanzitutto un gigantesco in bocca al lupo agli 11 azzurri che stanno per giocare la partita più importante della loro carriera. Baresi è in campo e questa è la sua 80esima presenza in nazionale dopo 24 giorni rispetto all'ultimo incontro. Aveva giocato il 23 giugno 48 minuti contro la Norvegia. Poi è stato operato di menisco e dopo questo intervento è stato fermo per un certo periodo, ma rientra prima di qualsiasi previsione. Il recupero di Baresi ha qualcosa di sbalorditivo, ma ancora più impressionante è ciò che accade durante la finale. Si gioca a Pasadena, per esigenze televisive, all'ora di pranzo locale. Fa un caldo indescrivibile, con un'umidità fuori dal comune. L'Italia arriva male a quella finale. Baggio sta in piedi per miracolo, la squadra è spremuta. Davanti c'è un attacco devastante come quello del Brasile e le condizioni di Baresi sembrano un'incognita. Tutto fa temere il peggio. Invece, la prestazione del capitano e di Paolo Maldini ha qualcosa di sovrannaturale. Va dentro il pallone sul quale c'è il perfetto anticipo da parte di Baresi che supera la linea centrale del campo. Si propone Baresi, eccolo. Va Baresi, cambia gioco dalla parte opposta cercando Donadoni. Ancora Maldini di testa all'indietro, poi Baresi disturbato da Romario. Baresi. Soluzione centrale stavolta a favore di Massaro e passa il tiro e Mattafarelle è pronto. Zolcigno sulla sua ala per l'inserimento di Masigno al centro, chiude Baresi. Santos. Baresi, la rovesciata sul tentativo di scatto da parte di Romario. Bebeto, il ritorno su di lui da parte di Maldini, l'inserimento di Baresi, il tocco esterno per Massaro, centralmente ancora un pallone sul quale si inserisce Roberto Baggio, c'è anche Baresi, palla addirittura per Baresi che al limite dell'area di rigore brasiliana termina giù sul contrasto di un avversario. I due attaccanti brasiliani vengono letteralmente stritolati dai due difensori azzurri che li anticipano, li sovrastano, li annullano. Anni dopo, Bebeto ricorderà quel match come qualcosa di molto simile all'inferno per un attaccante, con il caldo torrido, l'umidità insostenibile e Maldini e Baresi indiavolati. La Gazzetta dello Sport, il giorno dopo, darà ai due giocatori 9 in pagella. La gara, dopo 120 lunghissimi minuti, finisce 0-0 perché l'Italia è spenta, ma per il Brasile è davvero impossibile segnare quel giorno, anche stando in campo 2 giorni di fila. Si va ai calci di rigore. Franco Baresi ha retto 120 minuti ad oltre 35 gradi, a 34 anni e 24 giorni dopo un'operazione al menisco. È stato il migliore in campo. Sacchi gli chiede troppo, gli chiede di calciare il primo rigore. Baresi è il capitano, il condottiero, lui non può tirarsi indietro, mai. È una finale mondiale, ma Franco sa assumersi le sue responsabilità, sempre. Va sul dischetto, ma il caldo e la tensione lo hanno spremuto. Il passo, il volto, tradiscono l'indicibile stanchezza. Quando l'arbitro fischia, la sua rincorsa è molle. Mentre mezzo mondo tiene il fiato sospeso, il pallone di Baresi vola altissimo sopra la porta brasiliana, dritto in tribuna. Baresi crolla, in ginocchio, le mani al volto. L'Italia perde il mondiale. Il capitano, eroico, ora piange. I suoi compagni, non importa se milanisti, interisti, juventini, lo abbracciano, lo consolano. Lui è il capitano coraggioso, l'uomo d'acciaio che ha fermato il Brasile. La sua era sta finendo e Baresi lo sa. Paolo Maldini, l'altro gigante che ha stritolato i funamboli brasiliani, è lì pronto a prenderne il posto. Destini incrociati. Una dinastia di capitani, tutta rossonera. È la storia di oggi di Destini incrociati, che vi ha raccontato l'esordio intrecciato di Franco Baresi e di Paolo Maldini, re ed erede al trono della difesa milanista, entrambi lanciati giovanissimi da Nils Liedholm. A metà degli anni 90, dopo infinite battaglie condotte insieme, si prepara il cambio della guardia. Dopo il mondiale americano, Franco Baresi vince un altro scudetto con il Milan e con Maldini nella stagione 1995-1996. Compie 36 anni e l'età inizia vagamente a pesare. Ormai è un totem, una leggenda vivente. Sentite quello che dice Giorgio Weah, uno dei grandi giocatori che proprio negli ultimi anni di Baresi al Milan veste la maglia rossonera. Il mio ricordo più bello degli anni al Milan, ma non ho dubbi, aver fatto l'assist per l'ultimo gol di Franco Baresi contro il Padova. Più di qualsiasi altra cosa che ho fatto nella mia carriera, quello è stato un onore che non dimenticherò mai. Al termine della stagione 1996-1997, Baresi, dopo 531 partite e 16 gol in Serie A con la maglia del Milan, dopo 69 presenze in Europa, dopo una collezione sterminata di titoli, dopo soprattutto aver vestito solo e soltanto una maglia e una sola, appende le scarpe al chiodo. Ha 37 anni ed è leggenda. Il Milan prende una decisione storica per il calcio italiano. Ritira la maglia numero 6. Dopo Baresi, nessuno indosserà più quella maglia. 6 per sempre, dicono i tifosi, che ogni tanto, anche adesso, a distanza di 15 anni, espongono in curva un'enorme bandiera con un numero, il 6, e due scritte. Baresi, capitano. Com'era passata da Rivera a Baresi, la fascia di capitano del Milan passa da Baresi a Paolo Maldini, che a inizio carriera era stato, si può dire, suo allievo. Da un campionissimo a un campionissimo, insomma. Maldini diventa il nuovo leader del Milan, il nuovo condottiero, forte, spietato, devoto ai colori rossoneri, mentre mezzo mondo sarebbe pronto a costruirgli ponti d'oro. Paolo, che i tifosi chiamano cuore di drago, prende il posto di Baresi anche nella disposizione tattica. Da laterale sinistro a difensore centrale, almeno nel Milan. In nazionale, di cui è ormai indiscutibilmente il capitano, gioca ancora a sinistra. Dipende proprio dal momento della mia carriera. Nella parte corposa della mia carriera mi sono sempre sentito a mio agio come difensore laterale. E all'inizio, diciamo alla fine della carriera stessa, diciamo che il centrale come caratteristica era assolutamente il mio ruolo. La seconda carriera di Maldini come difensore centrale può vantare una quantità di riconoscimenti che fa davvero impressione. Con il Milan vince uno scudetto nel 1999 con Alberto Zaccheroni. Poi, nel 2002, inizia l'era Ancelotti. La società investe sul mercato e gli mette accanto al centro della difesa un altro fenomeno come Alessandro Nesta. Arrivano in rapida successione due Champions League, un Mondiale per club, uno scudetto, una Coppa Italia, due Supercoppe europee, altri piazzamenti vari nella classifica del Pallone d'Oro, insieme ad altri premi individuali di ogni tipo. Il totale delle presenze fa tremare le vene dei polsi, 647, con 29 gol in campionato, 174 nelle coppe europee. Con la nazionale, un argento e un bronzo mondiali, un argento negli europei del 2000, per un totale di 126 presenze. Paolo Maldini chiude con il calcio giocato al termine della stagione 2008-2009. Paolo ha 39 anni e chiude da grandissimo campione qual è, con una stagione ancora da protagonista. A fine stagione il Milan ritira la maglia numero 3. Sono così due le maglie del Milan tolte dalla circolazione, la 3 e la 6. Maldini e Baresi, i due capitani coraggiosi che per 30 anni hanno reso onore al calcio italiano nel mondo. The long and winding road that leads to your door. Disappear. I've seen that road before.